Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti gli ascoltatori di Radio 24, di Salva Danaio, da Deborah Rosciani. Oggi ritorniamo, dopo averlo già fatto a metà dicembre, averlo fatto tante volte in passato, sulla questione dei tango bond. La ricordate, la storia delle obbligazioni argentine sottoscritte negli anni 90 da oltre 400.000 risparmiatori italiani e protagoniste della clamorosa bancarotta del governo di Buenos Aires del dicembre del 2001. Da allora ad oggi abbiamo raccontato tutte le tappe che sono seguite alla dichiarazione di default, le banche italiane che hanno costituito la task force argentina per tutelare i detentori di questi bond, la proposta di risarcimento del governo argentino rifiutata in gran parte dei risparmiatori italiani, la nuova iniziativa della TFA, vale a dire il maxi ricorso all'ICSID, cioè il Tribunale Speciale di Washington per le controversie in materia finanziaria. In tutto questo ci sono stati anche risparmiatori che hanno agito in via legale contro la banca che ha intermediato le obbligazioni, molte cause vinte, altrettante perse. Ci sono stati risparmiatori che hanno accettato la proposta risarcitoria del 2002 del governo argentino, definita da molti, lo ricorderete, la proposta capestro, perché imponeva una perdita di almeno il 70% del capitale investito. Ci sono risparmiatori che nel frattempo hanno venduto i titoli sul mercato, anche in questo caso perdendoci notevolmente. Ci sono tante notizie arrivate di recente dal fronte argentino. Intanto si è diffusa la notizia che l'Argentina sarebbe pronta a riaprire il negoziato su questo debito pregresso, ma nei giorni scorsi, a ridestare il malumore degli investitori italiani, c'è stata un'altra notizia, quella della scoperta di riserve argentine detenute presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea in Svizzera per un importo di circa 40 miliardi di dollari, l'80% delle riserve totali argentine, e poi la visita in Italia per denunciare questo fatto di Robert Shapiro, presidente dell'American Task Force Argentina. Allora noi da queste ultime notizie partiremo per tornare a rifare un punto della situazione insieme intanto al presidente della TFA italiana, Nicola Stock. Presidente, buongiorno. Buongiorno signora Rosciani e anche ai suoi ascoltatori. Grazie, ritornato di nuovo con noi. Non manca mai a questo appuntamento periodico per aggiornare i detentori di obbligazioni argentine su quanto sta cambiando, sull'evoluzione appunto di questa vicenda che è stata molto triste per il nostro paese. Oggi vogliamo arricchire la nostra puntata anche con il contributo del collega del Sole 24 Ore corrispondente a Buenos Aires, Roberto Darin. Roberto, buongiorno, che abbiamo fatto fare la levataccia, ma so che l'ha fatta molto volentieri. Roberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, 800 24 00 24, lo conoscete bene il numero verde per intervenire a Salva Danaio. Se questo tema interessa ancora moltissimi di voi, lo so perché mi scrivete spesso proprio chiedendoci di tornare sull'argomento. Noi ovviamente lo facciamo sempre quando ci sono delle cose da raccontare. 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. Noi peraltro stamattina non abbiamo preparato, come facciamo sempre, una scheda di riepilogo della vicenda, l'ho fatto io all'inizio, ma vi proporremo in pillole l'intervista che abbiamo realizzato venerdì scorso a Robert Shapiro. Allora, intanto un'occhiata alla borsa prima di partire con la vicenda dei tango bond, borsa che era partita di nuovo piuttosto male questa mattina. Gli indici addirittura erano scesi di circa un punto, in particolar modo Francoforte, perché in Germania oggi pesa anche il rapporto sui consumi di GfK, ma si stanno riprendendo tutti quanti gli indici, con l'unica eccezione di Francoforte che manifesta ancora un calo dello 0,13%, mentre sono positive Parigi più 0,21, Londra più 0,41 e Milano più 0,25. Chiaramente ancora sotto i riflettori i titoli bancari dopo i forti cali degli ultimi tre giorni, delle ultime tre sedute della scorsa settimana, e in particolar modo i cali di venerdì seguiti alle dichiarazioni del presidente Obama, che ha annunciato un giro di vite molto pesante sull'organizzazione e la struttura del sistema bancario americano. A Piazza Affari oggi infatti recuperano Popolare di Milano più 3, Bulgari più 3, Ansaldo più 2,44, Fiat più 2, Unipol più 1,87, Pirelli più 1,79 e il Banco Popolare più 1,76%. Rimangono invece ancora in calo Telecom meno 1,44, il gruppo ha avuto oggi una penalizzazione di giudizio da parte di Citigroup, A2A meno 1,42, Lottomatica meno 0,9, Mondadori meno 0,8%. Peraltro abbiamo detto che è positivo Il Banco Popolare più 1,66%, a parte il recupero dei titoli bancari, ma anche perché il gruppo bancario italiano ha annunciato l'avvio di un roadshow europeo per il lancio di un programma pluriennale di obbligazioni bancarie garantite, e quindi ne sentiremo ancora parlare sicuramente nei prossimi giorni. Petrolio sotto i $75 al barile, euro su dollaro 1,41,83. Oggi diversi dati economici dagli Stati Uniti, altre trimestrali arrivano, quella di Apple e di Texas Instruments. Parlavamo del Banco Popolare, di questo roadshow europeo. Protagonista di un altro roadshow negli ultimi giorni è stato Robert Shapiro, già esponente di spicco dell'amministrazione Clinton, dell'amministrazione americana appunto guidata da Bill Clinton, oggi a capo della Task Force Argentina, dell'American Task Force Argentina, perché TFA ci si chiama quella italiana. E allora, prima di entrare nel merito del tema di oggi, anzi lo facciamo proprio ascoltando le motivazioni di questo viaggio, lo abbiamo sentito venerdì scorso, ma prima di tutto Shapiro ci spiega chi rappresenta l'American Task Force Argentina. Prima di tutto, Mr. Shapiro, può ricordare ai nostri ascoltatori chi rappresenta l'American Task Force Argentina? The American Task Force Argentina rappresenta... L'American Task Force Argentina rappresenta i possessori di Tango Bond e altre parti interessate, unite nel trovare una risoluzione al rifiuto dell'offerta fatta dal governo argentino nel 2005. Qual è l'obiettivo di questo nuovo viaggio in Italia? We're here in Italy to talk to members of your government and... Siamo qui in Italia per parlare con rappresentanti del vostro governo, della Banca d'Italia, così come con i possessori di Tango Bond, riguardo al fatto che quando ci si domanda dove sono i soldi dell'Argentina, la risposta è esattamente al di là del confine, in Svizzera. Proprio in questi giorni l'Argentina ha trasferito circa 40 miliardi di dollari in Svizzera alla banca per i regolamenti internazionali, e lo ha espressamente fatto per proteggere questi fondi dai creditori. Ma facendo questo, l'Argentina sta abusando della vera legittima funzione della banca internazionale. Il governo italiano e la Banca d'Italia, così come quelli di Germania e America, non dovrebbero tollerare questo abuso della banca per i regolamenti internazionali. Come avete fatto a scoprire l'esistenza di queste riserve in Svizzera? È stato grazie al risultato di una ricerca condotta dal Fondo Monetario Internazionale riguardante i luoghi in cui i paesi tengono le proprie riserve. Allora, la Banca dei Regolamenti Internazionali, nel mirino dell'American Task Force Argentina, questo organismo, lo avete sentito, ha sede a Basilea, come azionisti 56 banche centrali, fra cui la Banca d'Italia. Infatti Shapiro, poi ce lo racconterà, ha incontrato anche esponenti di Banca Italia in Italia. Presidente Stock, io parto subito da lei con questa notizia, che è quella che ha vivacizzato un po' di più il dibattito degli ultimi giorni, ritornando a parlare della questione dei Tango Bond. So che lei non è esattamente d'accordo con Shapiro sulla possibilità che bisognerebbe aggredire anche queste riserve presso la BRI a Basilea per tornare, come dire, ad individuare una nuova strada per tutelare i bond holders, i detentori di Tango Bond. Allora, insomma, come valuta questa scoperta? Le dirò che non è per noi una scoperta, perché da diversi anni che l'Argentina detiene ampie riserve presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, quindi non è un fatto nuovo. L'attuale regolamentazione della Banca dei Regolamenti Internazionali non impedisce il deposito dell'intero importo delle riserve da parte di uno Stato sovrano, quindi per ora quello che sta facendo l'Argentina è lecito. Se ci fossero delle modifiche a tali regolamenti, per cui forse le pressioni che si possono esercitare presso gli stati che sono soci di questa banca dei regolamenti internazionali, allora sì, ci potrebbero essere delle modifiche di cui noi saremmo ben lieti, ma allo stato attuale, come ripeto, i regolamenti non impediscono che ciò avvenga. Quindi, il timore è come potrebbero essere utilizzati dal governo questi soldi, visto che ha tentato anche di liberare le risorse detenute presso la banca centrale del proprio Stato, ma anche presso la Federal Reserve, presso gli Stati Uniti. Quindi, siccome questo Paese ha bisogno di tornare sui mercati internazionali, perché l'anno prossimo si va ad elezioni, un po' il dubbio è su questo, Presidente, credo almeno, o no? Lei mi permette di poter introdurre un tema che io ho sempre ufficializzato con chi naturalmente ha poteri di poter introdurre dei regolamenti. E cioè, io ho più volte sollecitato negli ultimi anni sia i vertici presidenti del G8, sia i rispettivi ministri del Tesoro, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, il presidente del Club di Parigi. Ed è quello dell'osservanza da parte di un paese, in questo caso mi riferisco ovviamente all'Argentina, delle sentenze passate in giudicato dai tribunali di altri paesi. Noi sappiamo che ci sono sentenze sia a Francoforte che a New York. L'Argentina per esempio in Germania ha 400 cause perse e oltre 100 negli Stati Uniti, a parte le varie presso l'ICSID. E quindi si dovrebbe richiedere a questi stessi, e ora richiede l'Argentina a questi stessi paesi, di poter riaccedere ai propri mercati finanziari nazionali senza alcuna osservanza delle sentenze contrarie e passate in giudicato. Tale comportamento sarebbe impossibile per un privato e invece oggi consentito, come ripeto, ad un emittente sovrano. Sarebbe quindi opportuno, come da anni sto sollecitando, che i paesi europei e gli Stati Uniti si dotassero di una normativa in tal senso che vietasse l'accesso ai propri mercati finanziari ai governi che non rispettano le sentenze locali. Questo sarebbe ovviamente una pressione enorme presso coloro che sono inaffidabili e non rispettano udienze dei tribunali dei diversi paesi. Volevo andare a Buenos Aires, abbiamo ancora un minuto e mezzo di tempo. Prima di andare alla nostra prima pausa, da Roberto Darin, perché il presidente Stock ci diceva che la questione delle riserve detenute in Svizzera di 40 miliardi di dollari è questione nota da tempo. Qua da noi ha avuto invece una risonanza abbastanza forte. Magari Roberto ci aiuterai anche a capirne le ragioni, ma ti chiedo che cosa dice la Casa Rosada di tutto questo e di questa nuova pressione che si è riaperta in maniera così forte, capeggiata appunto da questo organismo americano, e soprattutto come intenderà gestirla. Roberto. Eccoci, ma innanzitutto io sono abbastanza d'accordo con le ultime cose che ha detto il dottor Stock a proposito della Banca dei Regolamenti Internazionali. Credo però che valga la pena sottolineare che questo in corso è anche viene visto in Argentina come uno scontro politico innanzitutto. E prima questione. Seconda questione, più diretta ai risparmiatori che detengono Tango Bonds. Mi pare ormai chiaro che la strada dell'ICSID sia una strada lunga, accidentata, irta di difficoltà. Questo è un fatto certo, e che comunque la solvibilità dell'Argentina non sarà mai quella di Germania, Francia e Gran Bretagna. Questo, come dire, ne abbiamo parlato con Deborah Rosciani qualche giorno fa, quando ci siamo detti che quando fallisce la Lehman Brothers, bene, fallisce la Lehman Brothers e si cerca di risolvere il problema con minori danni possibili. Quando fallisce un paese, nel caso dell'Argentina nel 2001, le implicazioni politiche ed economiche sono di una portata straordinaria. E vale la pena rilevare che è fallito, sì, ma ci sono lì, sono rimasti qui 40 milioni di abitanti, un paese, un bilancio, un deficit, dei debiti, ecco, come dire, ci sono una serie di implicazioni molto pesanti, qui la comunità internazionale in qualche modo si deve fare carico, questo complica il problema, non lo semplifica, quindi al di là delle procedure che vengono enunciate e delle sanzioni che potrebbero venire comminate, tutto vero, però rimane un fatto certo che quando un paese viene raso economicamente al suolo, è il caso dell'Argentina nel 2001, una specie di Haiti economico-finanziaria, bene, ci sono delle problematiche di vario livello, a vario livello, che investono non solo il paese, non solo i 40 milioni di abitanti, ma una comunità internazionale. Questo, ripeto, complica certo, di molto il dibattito. Quindi chiaramente è ovvio che il punto di vista di Buenos Aires, anche per quello che puoi raccontarci tu, è di un certo tipo e forse da qua è più difficile ovviamente prenderlo in considerazione. Detto questo, però, il governo ha adesso a disposizione la legge che le permetterebbe di riaprire questa vecchia proposta di scambio appunto di titoli, anche se non in termini esattamente migliorativi, però tutto questo appunto proprio per sanare questa situazione pregressa e permettere a questo paese di ritornare sui mercati internazionali. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, che oggi è ritornata su una questione sulla quale questa trasmissione insomma si è concentrata spesso, la questione dei tango bond, i detentori appunto di vecchie obbligazioni argentine, quelle piazzate ai nostri risparmiatori intorno agli anni 90, 450.000 risparmiatori italiani con in mano all'origine della vicenda almeno 14 miliardi e mezzo di obbligazioni. Poi pian piano insomma la situazione si è un po' sfoltita di questi, perché molti hanno deciso di vendere questi titoli, molti hanno avviato azioni legali contro le banche che avevano intermediato queste obbligazioni. Gran parte di questi risparmiatori però sono oggi insieme alla Tax Force argentina in questo maxi ricorso al Tribunale Speciale di Washington, l'ICSID appunto, che è chiamato proprio a tutelare a gestire le controversie in materia finanziaria. Tra l'altro un ricorso che per entità è sicuramente forse il più grande che sia stato mai presentato presso questo consesso, che è istituito presso la Banca Mondiale. Allora, con noi questa mattina Nicola Stock, presidente della TFA in Italia, Roberto Darin, corrispondente del Sole 24 Ore da Buenos Aires, e abbiamo anche questi stralci di intervista che abbiamo realizzato venerdì scorso a Robert Shapiro durante la sua visita in Italia, presidente dell'American Tax Force Argentina. È stato un esponente di spicco dell'amministrazione Clinton, è stato anche parte del Consiglio Economico durante la campagna elettorale del presidente Barack Obama. Sentiamo un altro pezzo dell'intervista che abbiamo appunto realizzato venerdì. Recentemente alcuni giudici hanno bloccato le riserve argentine presso la Banca Centrale Argentina e presso la Banca Centrale Americana. Cosa pensa di queste decisioni? La decisione di bloccare le riserve argentine da parte della Banca Centrale Americana, in particolare di quella di New York, credo rifletta un atteggiamento sempre più diffuso tra i tribunali statunitensi. Il fatto che l'Argentina tenti in qualche modo di sottrarsi a un verdetto li porta a riflettere e ad analizzare la situazione più attentamente. I problemi che Cristina Kirchner sta avendo con la stessa Banca Centrale Argentina è un problema interno del paese, che tuttavia dimostra la tendenza del governo attuale di abusare delle istituzioni finanziarie. Il prossimo anno in Argentina ci saranno elezioni presidenziali. Pensa che questa prospettiva indurrà il governo argentino a riaprire il dialogo con i detentori di tango bond? Sì, credo che questo sia possibile. In particolare perché penso che Néstor e Cristina Kirchner abbiano usato tutta questa situazione per problemi di politica interna. Di fatto, per distogliere l'attenzione dai risultati deludenti della politica economica verso l'esterno. Di fatto, senza fare nulla. Ecco perché credo che un nuovo governo sia utile anche per risolvere la questione con gli obbligazionisti, sia americani che italiani. Italian bondholders and US bondholders. The new swap, it's certainly possible, but the new swap. Il nuovo scambio, a mio avviso, è peggiore del precedente. Tutti coloro che hanno rifiutato l'offerta del 2005 non dovrebbero essere tentati da questa nuova offerta. Alla fine, anche se ci vorrà ancora del tempo, credo che i possessori di bond finiranno per vincere la battaglia, perché l'Argentina dal 2005 non ha potuto accedere al mercato finanziario internazionale e nessun paese può resistere così a lungo. L'Argentina dovrà dunque risolvere la questione con gli obbligazionisti per poter accedere nuovamente ai mercati internazionali. Gli obbligazionisti, dunque, nonostante l'attesa, con un po' di pazienza avranno condizioni migliori rispetto alle attuali, che, come dicevo, sono comunque peggiori rispetto all'offerta del 2005. Prima di sentire gli ascoltatori in attesa, sono Electra da Roma, Franco da Roma e Francesco da Genova. E prima di ritornare su questo argomento con Nicola Stock, il presidente della TFA italiana, volevo ritornare per un attimo da Roberto Darin a Buenos Aires, perché mi chiedo, Roberto, visto che se ne è fatto anche un gran parlare nel nostro paese di questo pesante scontro istituzionale che Casa Rosada appunto ha ingaggiato con la banca centrale del proprio paese, proprio perché gli è stato impedito di utilizzare le riserve appunto del governo presso la banca centrale centrale per l'appunto. Mi chiedo a cosa servano queste, a cosa dovrebbe servire in questo frangente al governo questo denaro, perché mi risulta appunto proprio che in questo momento la situazione economica argentina sia di nuovo in deterioramento abbastanza pesante, e soprattutto se c'è questo grosso problema economico, come pensa, visto che lo vorrebbe fare, se non sbaglio, in febbraio, di riaprire il concambio con i detentori di vecchie obbligazioni allora? Dunque, una domanda alla volta. A cosa serve, mi chiedevi, questo scontro? No, questo denaro che praticamente sia, perché se il giudice Griese in America ha dovuto anche bloccare il denaro argentino presso la Federal Reserve, quindi evidentemente il governo argentino aveva chiesto anche di poter accedere a queste riserve. Perché cosa gli servono? Dunque, questo Presidente è un punto Kirchner. Importante, perché lui, il governo argentino, ha chiesto alla Presidenta 6,5 miliardi di dollari. Attingere 6,5 miliardi di dollari dalle riserve che attualmente sono vicine a 48 miliardi di dollari. Con questi soldi vorrebbe estinguere dei debiti presso il fondo, presso la Banca Mondiale, e usarli per riaprire questo concambio. Questa è la spiegazione formale e ufficiale. L'opposizione naturalmente dice: no, in verità tu vuoi finanziare la spesa pubblica, quindi vuoi utilizzare le riserve della Banca Centrale per fini illeciti, e qui già si apre il primo scontro. In verità la questione è piuttosto delicata, perché questi stessi oppositori al governo argentino che stanno contestando ora l'uso delle riserve per pagare i debiti, fino a pochi mesi fa imputavano al governo argentino la non disponibilità a sanare i debiti con il insomma quello che fa sbaglia la Presidente mondiale. Quindi, come dire, qui poi diventa un terreno scivoloso in cui le posizioni abbracciano gli oppositori abbracciano delle posizioni che possono essere in qualche modo di opportunità. Ciò che mi pare valga la pena rilevare è che la posizione di Shapiro, come dire, è anacronistica per alcuni aspetti. Beh, sta, a livello politico sta sicuramente portando avanti l'interesse, ma non è più plausibile dire: ah no, l'Argentina si metterà tutti contro a livello internazionale. Ora, ciò che è accaduto nel 2001 in Argentina è un fatto che ha provocato poi uno tsunami anche a livello mondiale, in cui il Fondo Monetario ha fatto mea culpa e il presidente da Stiglitz in avanti sono state mosse delle critiche molto, molto pesanti al Washington Consensus, ad alcune politiche adottate dai paesi latinoamericani su suggerimento. E beh, c'è il timore che possano creare un precedente enorme. Fino adesso l'abbiamo scampata, ma se qualche altro paese in difficoltà venisse in mente di non ripagare le proprie obbligazioni perché c'è già qualcuno che l'ha fatto, è chiaro che si cerca in qualche maniera anche di prevenire un'eventualità così disastrosa. Roberto, non credi? Assumere delle posizioni così frontali, ecco, il dialogo secondo me rimane un fatto ineludibile e la posizione di Shapiro purtroppo, dal mio punto di vista, per come leggo io la politica argentina e che posso vedere da vicino, certo, è ben lontana dall'accettare una posizione come quella di Shapiro, nel senso che questo è un paese che ha l'85% di tra le fila dell'opposizione e tra le fila dei governativi, posizioni che sono pesantemente anti-americane. Questo, se uno adottasse la posizione di Shapiro, le tensioni non potrebbero che acuirsi in maniera esponenziale, e questo non lo vuole nessuno, Washington per prima. Quindi, come dire, la questione dei tango bonds, speriamo soprattutto per i risparmiatori italiani che abbia un esito meno infausto del precedente, però comunque lì dal dialogo bisogna passare, l'idea e dal compromesso in sostanza, come alcuni auspicano, e tra questi, tra le parole di Shapiro, mi pare evidente che la sua linea sia quella, è una posizione che porta a una guerra da cui i risparmiatori italiani non avranno benefici, ecco, perché benissimo, l'Argentina come paese riesce a coalizzarsi e a riscoprire uno sciovinismo che va contro gli interessi dei risparmiatori. Grazie italiani. Roberto, per adesso, poi ritorniamo da te un attimo, sentirei un paio di domande di un paio di ascoltatori, però, per poi ridare naturalmente spazio al Presidente Stock. Franco da Roma, tornerei da lei e la inviterei a non ripeterci del fatto che l'Argentina ha denaro depositato a Basilea, perché lo abbiamo già detto. Franco, però lei vorrebbe puntare, se non sbaglio, proprio sulla questione delle ricchezze di questo paese. Senz'altro, saluto tutti. Rapidissimo. Senz'altro, oltre quello che è stato detto su Basilea, qui andrebbe un dibattito un po' più esteso. Non abbiamo tempo. Sono d'accordo con il dottor Stock. Devo purtroppo essere in contrasto con il signor Darin da Buenos Aires, il quale non deve fare questi discorsi che il mondo si deve fare carico di una nazione come l'Argentina al pari di Haiti perché c'è uno tsunami. Il fondo monetario è stato ripagato totalmente in anticipo e solamente una mentalità senza cervello come i reggitori argentini può fare una cosa del genere, quando i tassi di interesse del fondo monetario erano al 3-4%, sì. E adesso l'Argentina non riesce a ottenere debito al 20%. Volevo dire, sì, delle ricchezze immense di commodities che l'Argentina ha, non si parli della carne, dell'agricoltura, uno fra i delle terre, sì. Maggiori produttori di soia, ma voglio riferirmi soprattutto alle enormi miniere di ogni materiale come il litio, che in questi giorni io ricordo le batterie. Le batterie per le macchine future elettriche, che sarà il futuro, ed enormi introiti che l'Argentina potrà fare. Benissimo, Franco, devo salutarla, abbiamo capito perfettamente, lei è stato di una chiarezza esemplare. 800 24 00 24, numero verde per gli ascoltatori, per intervenire alla trasmissione di questa mattina ancora una volta dedicata ai Tango Bond. E sentirei anche rapidamente Electra da Roma, per poi dare spazio al presidente della TFA in Italia, Nicola Stock. Electra, buongiorno. Aspetta un pochino, mi scusi. Sì. Ah, buongiorno, comprendo che la situazione è veramente difficile, soprattutto quando ci sono interessi politici e finanziari. E ho ascoltato attentamente la trasmissione e non mi resta quindi che attendere le direttive di Nicola Stock, perché mi sembra che non ci siano soluzioni alternative. Del resto lei l'ha già detto e l'ha anticipato che la situazione è complessa, quindi So che lei voleva fare riferimento anche, ma magari Electra lo faccio io, ad un articolo apparso, ma non è solamente quello di Repubblica, l'hanno fatto anche i colleghi del Sole 24 Ore, sul fatto che appunto diverse banche hanno rastrellato titoli sul mercato secondario, ovviamente comprandoli a prezzi stracciati, per cui hanno tutta l'intenzione di sostenere anche la riapertura dello swap da parte del governo argentino per poter fare anche dei profitti non indifferenti. Però qui siamo proprio nell'ordine della categoria degli speculatori di cui parlare. Presidente Stock, da che cosa partiamo? Se vuole anche un commento rispetto a quello che si aspettano tutte le persone che hanno aderito al ricorso all'ICSID, facciamo anche un punto rispetto a questa situazione, perché come abbiamo ricordato a dicembre, ad aprile c'è un appuntamento piuttosto importante. Perfetto, la ringrazio e naturalmente leggo sempre con interesse gli articoli di Darin, ma certamente raffrontare l'Argentina con il Cile, un paese che ha portato fuori oltre 150 miliardi di dollari ed è un paese che si è praticamente emarginato da se stessa con i suoi comportamenti, perché è un paese ricco, un paese che se avesse avuto diversi comportamenti avrebbe potuto accedere diversamente. Anche questa legge sullo stato di emergenza che ancora è stata rinnovata, insomma credo che sia una sfida a tutti. E colloqui noi con l'Argentina abbiamo tentato in tutte le maniere, quindi il colloquiare con l'Argentina lo vedo inutile. Noi l'abbiamo tentato in tutte le possibili maniere, ma senza alcun risultato, quindi lì ho dei dubbi. Per quanto riguarda l'ICSID è un ricorso arbitrale molto grande, lei giustamente lo ha sottolineato, è il più grande finora avvenuto, ha delle grosse difficoltà nelle organizzative che noi abbiamo adempiuto. Purtroppo c'è stata la morte del presidente del Tribunale Arbitrale, che ha fatto ovviamente slittare di oltre mezz'anno questa udienza finale per quanto riguarda la giurisdizione. Finalmente ad aprile continueremo nel nostro percorso, nonostante la sabbia che l'Argentina ha cercato in tutti i modi di mettere negli ingranaggi, noi siamo pronti e preparati anche con i nostri avvocati di cercare di ottenere una sentenza sulla giurisdizione favorevole. Ecco, esattamente che cosa vuol dire fissare la nuova udienza sulla giurisdizione dell'arbitrato, Presidente, tanto per rendere comprensibile? Ci sono tre grossi passaggi di questo ricorso. Uno è la registrazione che noi abbiamo ottenuto nonostante le varie opposizioni argentina. Poi c'è la giurisdizione, la fase giurisdizionale, che significa che il tribunale si ritiene competente per dirimere una vertenza di questo genere. Una volta passata questa fase giurisdizionale c'è la terza fase, che tutto sommato è un po' più semplice, cioè il riconoscimento del merito, cioè del quantum l'Argentina deve pagare ad ogni bondholder. Se l'Argentina il prossimo mese ripresentasse nuovi parametri per riaprire lo scambio del 2005, che abbiamo già detto, secondo le indiscrezioni che sono passate fino a questo momento, non è che migliorerebbe molto i termini, appunto perché comunque imporrebbe ancora un abbattimento dei capitali inizialmente investiti. Insomma, voi come vi comportereste rispetto a questo? È chiaro che bisognerà dare massima libertà di scelta a tutti quanti gli investitori e risparmiatori. Presidente, so che ancora non c'è molto da commentare perché sono solo indiscrezioni, non dico giornalistiche, forse c'è qualcosa di più, però se l'Argentina lo facesse a febbraio, si ripresentasse con questa opzione? Intanto devo dire che colloqui o negoziazioni su questo temo che si rivada alla fotocopia dell'altra volta, quando l'Argentina ha presentato la sua offerta senza aver avuto alcun colloquio con i suoi creditori, e purtroppo devo dire che l'Argentina ha fatto solo delle negoziazioni, ma solo con dei fondi speculativi o con delle banche che hanno comprato questi titoli a prezzi ben diversi da quello che hanno comprato i nostri bondholders. Quindi negoziazione, colloqui, ripeto colloqui, perché non ci sono stati. Se dovesse essere la proposta argentina leggermente inferiore a quella precedente, lascio a lei come potremmo noi consigliare ai nostri bondholders di accettarla. Noi comunque andremo avanti con l'ICSID e cercheremo di portare a casa il massimo possibile. Il dover consigliare, a prescindere, come lei giustamente ha detto, noi non abbiamo nessuna indugiazione a parte quella apparsa sui giornali, ma se dovesse essere peggiorativa di quella precedente, le può immaginare che i bond sono in possesso dei nostri risparmiatori, saranno loro ovviamente a decidere che cosa ritengono di fare al meglio, ma noi faremo un esame, glielo sottoporremo e poi sarà la loro decisione finale. Tra l'altro, Presidente, visto che non siamo riusciti a completare questo discorso prima, visto che l'obiettivo del ricorso al Tribunale di Washington è proprio quello di aggredire i beni argentini per poter utilizzare ovviamente queste risorse e quindi risarcire integralmente i detentori di vecchie obbligazioni, su quali beni avete messo la mira, insomma, se è possibile dire che non si può uscire con le possibilità in un momento in cui siamo in giudizio con l'Argentina, scoprirei troppo le carte, però lei deve pensare, chi ha avuto una sentenza a New York la può espletare solo a in New York, a parte che poi deve richiedere eventualmente le possibilità presso altri tribunali. Il nostro è che dal immediatamente no, perché non vorrei che si scoprisse che gli italiani avessero diritto solamente ai beni argentini in Italia, poi scopriamo che non c'è niente. Per questo abbiamo fatto l'ICSID, perché l'ICSID, la convenzione firmata dai circa 146 paesi, fa sì che un lodo arbitrale l'ICSID sia immediatamente eseguibile presso questi 146 paesi. Questo significa che l'Argentina, in uno di questi posti dove ha delle liquidità, sarebbe immediatamente pignorabile. L'ultima parte dell'intervista a Robert Shapiro. E oggi ha incontrato alcuni rappresentanti della Banca d'Italia. Cosa è successo in questa sede? We had a very useful conversation. Anche con i rappresentanti della Banca d'Italia c'è stato un incontro proficuo riguardo al ruolo della banca per i regolamenti internazionali. Banca Italia analizzerà la questione con molta cautela. Dopo l'Italia andrò a Berlino, dove incontrerò rappresentanti del governo, e da lì andrò a Bruxelles per incontrare membri del Parlamento europeo, ai quali esporrò gli stessi fatti presentati al governo italiano e alla Banca d'Italia. same case I have made to the members of the Italian government and the Italian Central Bank. Cosa si sente di promettere agli investitori italiani? Non posso promettere nulla, ma posso dire che credo realmente, come si dice in questi casi, che si stia iniziando a vedere la luce in fondo al tunnel. Lo speriamo. Vorrei sentire l'ultima domanda di Francesco da Genova, che deve essere telegrafico. Francesco, me lo promette? Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io ho acquistato nel 97 ovviamente dei Tango Bond, sì. E li ho fatti acquistare anche a mia moglie per sua madre. Successivamente non ho aderito all'offerta argentina di conambio e mi sono iscritto, ci siamo iscritti alla TFA, sì. Abbiamo aderito alla TFA. Sì. In epoche diverse, io entro il 30 giugno 2004, mi pare, lei successivamente. Poi c'è stata il ricorso all'ICSID. Sì, Io ho potuto aderire al ricorso all'ICSID col discorso della prescrizione, eccetera, eccetera. Mia moglie, che aveva aderito al TFA successivamente a questa famosa data del 30 giugno, non ha potuto aderire e quindi ha mandato una lettera per interrompere la prescrizione direttamente al governo argentino. Ora mi chiedo, intanto, io credo che sia una cosa perfettamente sbagliata. Se abbiamo entrambi aderito alla TFA... Francesco, allora guardi, ho un minutino di tempo, sento subito Stock su questo. Presidente Stock, cosa possiamo suggerire a Francesco, sì, che comunque vogliono fare la battaglia con voi? Sì, in questi casi naturalmente la lettera che ha scritto al governo argentino dovrebbe interrompere appunto i termini la prescrizione. Prescrittivi. Mentre la differenza tra lui e la consorte è purtroppo va da un periodo che il governo argentino deve avere di preavviso su un'azione giudiziaria che si fa contro di esso, per cui lui che aveva fatto l'iscrizione alla TFA prima rientrava in questo periodo, la consorte che l'ha fatto successivamente purtroppo no. Però naturalmente nelle discussioni, nei colloqui che avremo, se ce l'avremo, con gli argentini, cercheremo che la cosa non sia anche verso gli altri bondholders italiani che non hanno potuto avere. Esatto, io invito l'ascoltatore a scriverci, magari facciamo formulare alla TFA una risposta per il nostro ascoltatore, in modo tale che si possano capire bene appunto le ragioni per cui effettivamente ai due coniugi è stato per forza di cose riservato un trattamento diverso. Grazie Presidente Stock, grazie a Roberto Darin e a tutti i nostri ascoltatori. Ritorneremo su questa questione, lo faremo sicuramente in aprile, così ho la vaga sensazione, sperando non prima di dover parlare appunto di questa riapertura del concambio del governo di Buenos Aires, se non è detto. Ci sentiamo presto. Salva Danaio.